diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. So everything is average nowadays. Everything is average nowadays. But everyone will do it if they can. But everything is going down the path. But everyone is following the craze. But everything is average now. You say it's getting better, but I don't really see the signs. You said it is too different. Thought it would be suicide. Il tempo di cominciare e già succede qualcosa che non va. E vabbè, pazienza. Intanto buongiorno, buongiorno. Dobbiamo sistemare un po' tutte le cose qua stamattina, sì. Perché è un po' tutto messo male, devo dire. Esatto, rimbomba sì. Un po' tutto e dobbiamo cercare di evitare questa cosa qua. Intanto buongiorno, ci siamo CRM Happy Radio, Mary Catalano, Deja Vu e naturalmente Peppe Carrozza insieme a me. Tutti in carrozza. Olè. Insieme tutti quanti sino a mezzogiorno, anche per questo giovedì del 23 di maggio. Ancora io sono praticamente influenzatissima, non so se vi siete accorti, una voce che sembra quella di non so chi, sicuramente non mia, molto nasale. Ma d'altronde che vogliamo fare con questo tempo? Non poteva che essere così. Figurati, d'inverno non mi sono beccata neanche un raffreddore, doveva arrivare la primavera per arrivare ad essere in questo stato. Va bene, la musica sino a mezzogiorno insieme e la musica che anche voi potete segnalarci. Andiamo avanti con il nostro appuntamento, è appena cominciato, c'è un sacco di bella musica da ascoltare, quindi perché non andare subito a sentire la prossima? Buongiorno. Say 30's the new 20, and 20's the new 30, should I guess? Makes sense, cause 15-year-olds seem 20, and 25-year-olds seem 10. I used to drink away my paycheck, celebrate the mistakes I hadn't made yet. Our generation isn't the best on safe sex, we forget the latex, becoming plant bearing her patience. Synthetic heroin is the new base head, so much to escape, fuck a straight edge. Walk around, looking through a fake lens, apps this good, who's got time to make friends? I wish I didn't care if cynical hipsters with long hair, cocaine problems, like my music, it's not my issue, I can't solve it, yeah. Finally landed. refreshing to hear somebody on records. No guns, no drugs, no sex, just truth. The guns, that's America. The drugs are what they gave to us. The sex sells itself. Don't judge till it's you. I'm not more or less conscious. The rappers rapping about strippers up on a pole popping. These interviews are obnoxious, saying that it's poetry, it's so well spoken. Stop it. I grew up during Reaganomics, when Ice-T was out there running, killing cop shit. Where Rodney King was getting beat on, and they let off every single officer in Los Angeles, went and lost it. Now every month there's a new Rodney on YouTube. It's just something our generation is used to. In neighborhoods where you never see a news crew, unless they're gentrifying, white people don't even cruise through. And my subconscious telling me stop it. This is an issue that you shouldn't get involved in. Don't even tweet RIP Trayvon Martin. Don't wanna be that white dude, Million Man Marching. Fighting for a freedom that my people stole. Don't wanna make all my white fans uncomfortable. But you don't even have a fucking song for radio. Why you out here talking race, trying to save the fucking globe? Don't get involved if the cause isn't mine. White privilege, white guilt at the same damn time. So we just party like it's 1999. Celebrate the ignorance while these kids keep dying. My flight has finally landed down. I'm at ground and stop moving. Bentornati su CRM Happy Radio con Deja Vu, con Mary Catalano e anche oggi con me, con Peppe Carrozza. E vi ricordiamo i nostri contatti, potete anche vederci su streaming al sito www.crmhappyradio.it, oppure potete anche inviarci un sms per le vostre richieste al 335-56-37251 o telefonare allo 0921-923292. Se non siete ancora fan nostri su Facebook, potete andare sulla pagina Facebook di CRM Happy Radio e cliccate sul bottone mi piace. Dopo aver sistemato un po' le cosette tecnicamente parlando qui in studio, ci ritroviamo e ci sentiamo meglio, no? Sì. Letteralmente parlando, a parte il raffreddore, la voce nasale e tutto quanto. E naturalmente la musica parla da padrona all'interno di questo appuntamento, onnipresente, onnipotente, assolutamente la musica, quella che conta di più. E voi siete grandi partecipi per quanto riguarda la scaletta musicale che compileremo insieme sino a mezzogiorno, e dunque insieme a me e insieme a Giuseppe continuiamo a sentire appunto la musica che è la super protagonista, e questa volta facciamo un tuffo nel passato con Madonna, Like a Virgin, la canzone, sì. Mamma mia, quanti ricordi legati a questa canzone di Madonna, Like a Virgin. Tu te la ricordi questa canzone? Sì, sì. Direi di sì, un po' tutti ce la ricordiamo, quantomeno quelli che negli anni Ottanta vivevano la propria adolescenza e quindi ascoltavano la musica di Madonna. Beh, io proprio adolescente no, ma appena nato più o meno sì. La tua mamma ti faceva sentire Madonna. Hai capito? E insomma, Madonna, una star di tutti i tempi, del passato, sì. Ma mai come adesso, ancora più famosa, ancora più grande. E va bene, abbiamo sentito questo successo, uno dei primi di Madonna, che appunto l'ha portata al grande pubblico. E naturalmente, sempre all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano, oggi vi parliamo di allergie. Naturalmente questo è il periodo, e il periodo di allergie, si sa, tra raffreddori e piedi piante, fiori e tutto quello che c'è in primavera, insomma ci becchiamo non solo il raffreddore ma quelli che sono appunto soggetti anche alle allergie del periodo. E leggevamo che si può essere allergici anche ai baci. Dobbiamo stare attenti pure a questo adesso, Peppe. Come sì. Dobbiamo fare? Sì, in un certo senso si può essere allergici ai baci, infatti possono scatenare reazioni di vario tipo in chi soffre di allergie alimentari se l'altro ha mangiato il cibo allergizzante. Da uno studio dell'Università della California negli Stati Uniti è emerso che su 379 pazienti con allergie alla frutta secca, 20 avevano avuto una reazione allergica dopo un bacio, e non sono incriminati solo i baci passionali. Può bastare un bacino sulla guancia per provocare in un minuto prurito, gonfiore o orticaria, addirittura nel punto di contatto delle labbra, e talvolta gravi difficoltà respiratorie. Bisogna proprio stare attenti allora. In genere i baci diventano innocui entro 6 ore dall'ingestione del cibo. Devono passare 6 ore però. C'è qualche rischio anche per le allergie ai farmaci. Meglio non baciare profondamente chi ha appena assunto un farmaco al quale si è allergici. Buona a sapersi questa cosa qua per chi è allergico, no? Però uno dovrebbe sempre andare a chiedere: ma che cosa hai preso, che cosa hai mangiato? Hai preso non starebbe bene, lo so, questo è un piccolo problema. Però bisogna insistere, perché i baci sono anche in grado di alleviare le allergie. Lo ha dimostrato l'immunologo giapponese, ahimè, Kimata, dell'ospedale Satu di Osaka, che ha chiesto a 48 pazienti con dermatite allergica o raffreddore da fieno di baciarsi per mezz'ora con il partner. Dopo le cosiddette sedute di baci, i loro livelli di IgE, che sono gli anticorpi implicati nelle reazioni allergiche, calavano notevolmente, più di quanto avvenisse con soli abbracci e carezze. Hai capito? E va bene, se proprio dobbiamo, facciamo uno sforzo, parliamo ovviamente per chi è allergico, facciamo queste richieste, chiediamo prima di baciare i prodotti allergici, se si è assunto farmaco eccetera eccetera, se non vogliamo incorrere a qualche problemuccio appunto in più riguardo alle allergie, soprattutto quello. Se no facciamo finta di niente, poi come viene, come si dice in questi casi, come viene si racconta, per dirla tutta in italiana, se si potrà raccontare. Appunto, intanto noi vi raccontiamo della prossima canzone. Arriva un altro bellissimo singolo di questo periodo, Emma con Amami. La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare, svengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Con i tuoi occhi, la mia fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina, e conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. Yeah. tutto quello che resta. Sono sogni incollati fino a dentro le ossa, e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro ai ricordi e poi restiamo da soli. Ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. Deja Vu su CRM Happy Radio. Stiamo cantando tutta questa canzone stamattina all'interno dei Deja Vu con Peppe Carrozza, sempre insieme a me, già da qualche appuntamento. Sì. E fino a mezzogiorno insieme a voi, anche per questo giovedì del 23 di maggio, che non si sa che vuole fare, se freddo, se caldo. Freddo no, freddo non c'è, però se stai fuori all'ombra, questa aria fresca. Qualche malanno te lo prende. Sì, sì, state attenti, non fate come me. Non vi beccate. proprio in questo momento l'influenza, perché è fastidiosissima, c'è pure, battono porte, mi sento tipo in un film dell'horror, sai? Far West, o Far West, insomma. Va bene, comunque siamo qui su CRMP Radio, nei nostri studi belli, comunque tranquilli, e parliamo di qualcosa che è accaduto a Castelbuono, vero? Tu ne sai qualcosa, mi sa. Ne so qualcosa, dato che vengo da là, quindi... Beh, dovete sapere che la scorsa settimana è arrivato in Castelbuono un emiro che si chiama Mohamed Al-Emadi, che è venuto dal Qatar per proporre ai fratelli Fiasconaro, famosi a livello mondiale per il panettone, di poter aprire all'interno di un centro commerciale che ha intenzione di aprire uno stand proprio dei Fiasconaro. Mamma mia, fantastico. Quindi abbiamo visto proprio Castelbuono invasa da, da questo emiro che ha suscitato così tanto clamore all'interno del paese. Ricchissimo, naturalmente. Mamma mia, ha lasciato poi. Ha fatto circolare, diciamo, l'economia un po' di monetine a Castelbuono. Ho capito. La pizzetta Margherita di Castelbuono, centro medievale di 10.000 anime, incastonato nel cuore delle Madonie in Sicilia, lo sappiamo, dovrebbe essere replicata dunque in un quartiere di Doha, si dice così, capitale del Qatar. Non è dato sapere se l'esecuzione comprenda anche la facciata della Chiesa Madre e del Castello Museo delle Madonie. Per certo lo sarà l'insegna del bar gelateria Fiasconaro, che di quella pizzeria è il luogo di ritrovo. Luogo di ritrovo per i locali e i turisti, attratti ovviamente dall'aria dalle vestigia medievali della cittadina e dai dolci della manna di Frassino, vedi, non so neanche dove mettere gli accenti, e creme di pistacchio di Bronte, firmate naturalmente tutto quanto Fiasconaro. L'idea è proprio di questo emiro, che devo dire ha lasciato tutti un po' a bocca aperta, perché tu non te l'aspetti che un emiro arrivi qua in Sicilia e decida poi di far sua una cosa del genere e portarsela nel suo paese, no? Quest'idea, insomma, e poi questa bontà, soprattutto, che sono le cose che fa Fiasconaro. E va bene, allora a questo proposito salutiamo tutti i castelbuonesi, visto che già che ci siamo, sì, e Castelbuono, e naturalmente tutti quelli che in questo momento ci ascoltano da ogni dove, grazie anche al nostro sito, il www.crmpiradio.it, dove ci seguite in streaming e dove, se volete, potete seguire anche le repliche in podcast dei vari appuntamenti. E andiamo avanti con il nostro invece di appuntamento, e arriva Bob Sinclair con Summer Moonlight. Sì. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. As you're touching my head, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Touch my head, touch my gentle, touch my head, touch my, touch my head, touch my gentle, touch my head, touch my. As you're touching my hair, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight,

chase city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world lit it up as my stage now, channeling angels in. You play for me at your show, in all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will. And Beautiful, questo singolo mieloso, direi, di Lana Del Rey, fa pure rima. Io sono brava con le rime, lo sai. Vabbè, farla poetessa. E va bene, sempre qui su CRM Happy Radio, all'interno di Deja Vu, sempre con me Mary Catalano e Peppe Carrozza. Peppe Carrozza, sì. Sì. E fino a mezzogiorno insieme. Già sono le 11, abbiamo ancora una bella oretta piena piena da trascorrere insieme in questo giovedì del 23 di maggio, abbastanza assolato, ma anche abbastanza ventilato, direi. È frescoso, sì. E in questo periodo di primavera arrivano anche le zanzarone, quelle che danno fastidio, le zanzare, il tigre. Ai sì, sale questo allarme zanzara in Sicilia e proprio soprattutto a fine maggio, pensa un po'. E ci siamo. Ci siamo, sì, complici naturalmente l'umidità creata dalle recenti piogge e il rialzo delle temperature, si prevede questo forte aumento della zanzara tigre per del 41% in più. Assai. Ma dovremmo riprendere un po' i pipistrelli di cui parlavamo l'altra volta. Parlavamo di questo fatto che ci sono dei pipistrelli che si possono acquistare e non so dove adesso. Sì. Non mi ricordo più, forse dov'era, in Giappone? Sì, mi sembra che fosse in l'idea Giappone. L'idea era è sempre da loro, ovviamente. Sì. Ci sono questi pipistrelli, dicevamo in qualche trasmissione fa, che si possono tenere in casa, gli si crea un habitat e in pratica vi mangiano le zanzare che ci sono in circolazione. Se volete, oppure ricorrete alle normali prevenzioni che si usano appunto quando ci sono le zanzare in giro. E poi, se si tratta di zanzare tigre, non so se mi spiego, è la un cosa po' più pericoloso. È un po' più pericoloso. A proposito di insetti, l'altra sera sono andata a correre. Così, ecco. Tanto per cambiare, mi sono ritrovata con una maglietta che da prima era rossa.

Ed eccoci tornati qui su CRM Happy Radio, ringraziamo ancora Vincenzo che ci ha richiesto questa canzone. Erano in Florida con Good Feeling. Vincenzo è un mio carissimo amico. Buone sensazioni, Good Feeling. Good Feeling. Buone sensazioni, è un tuo amico. Sì. E le buone sensazioni, scusate se mi ripeto, arrivano sempre, spesso, dagli amici. Meno male se ne abbiamo tanti. Meno buono se non ne abbiamo o ne abbiamo pochi. O comunque forse meglio pochi, ma buoni. Mettetela come volete. Importante è avere amici. Tanti amici. Poi se ne hanno tanti. Tanti o pochi, però basta che siano buoni. Infatti, basta che siano quelli giusti. Ecco. Ebbene sì, avere tanti amici sembra proprio che faccia bene e allunga dunque la vita, proprio così. Eh sì, perché dovete sapere che molti studi dimostrano che una buona rete sociale associata ha un minor rischio di disturbi psicologici, come ad esempio la depressione, malattie fisiche e persino anche di mortalità. Dovete sapere che Lisa Berkman e Leonard Sim, che sono epidemiologi, rispettivamente dell'Università di Yale e della California, hanno studiato lo stato di salute e i legami sociali di 6.928 persone, considerando matrimonio, contatti con i familiari, numero di amici e l'appartenenza a organizzazioni. Quelle con una rete sociale ridotta, limitata a pochi contatti intimi, hanno avuto nel corso di 9 anni un tasso di mortalità pressoché doppio rispetto a quello che a quelle che con una rete estesa. Come si spiega? Dimmi, come si spiega? Allora, innanzitutto, gli altri danno sostegno emotivo, rafforzando autostima e benessere psicologico. Inoltre forniscono consigli, aiuto e informazioni utili per affrontare difficoltà e problemi. Infine, amici e familiari aiutano a seguire comportamenti importanti per la salute, come aderire alle prescrizioni mediche o mangiare adeguatamente. In base ad alcune ricerche, il sostegno sociale influisce sulla salute perché protegge dall'impatto negativo dello stress, come poter contare sugli altri aiuta a far fronte agli eventi stressanti e porta a viverli con più leggerezza. Janice Kicolt Glaser, speriamo di pronunciare bene questi nomi, ma tanto forse probabilmente non ci sentiranno mai, ma penso proprio. Quindi qualcuno, comunque un docente al Dipartimento di Psichiatria dell'Università dell'Ohio negli Stati Uniti, ha anche riscontrato un'associazione fra bassi livelli di sostegno sociale e depressione del sistema immunitario. È online? Beh, a questo punto. Se abbiamo 4.500 amici su Facebook. Come il Vincenzo che ci ha richiesto la canzone, che io non capisco dov'è che li conosco tutte queste persone, va bene. Nel caso in cui, a questo punto rimane quindi da studiare questa rete telematica come quella di Facebook, ad esempio, e altri social network che hanno effetti sulla salute e sulla mortalità. Vedremo un po'. Vedremo, staremo a vedere se funziona anche in questo senso. Intanto è arrivato il momento di sentire la prossima canzone e arriva la musica italiana, mi pare, vero? No, mandiamo un po' di pubblicità, dai. Mandiamo la pubblicità, facciamo una piccola pausa e già vi preannuncio Vasco Rossi. Sì. Vieni qui. Vasco Rossi con Vieni qui, il singolo che abbiamo sentito per lui quando sono le 11:18. Ancora buongiorno e bentrovati, siete su CRM Piredi all'interno di Deja Vu. L'ho detto tutto in un fiato, che tirata. Allora Giuseppe, parliamo di una cosa che mi preme veramente tanto, perché si tratta di una cosa che accade qua in Sicilia. Sì. E non è bello, perché sembra che in Sicilia siamo sempre più poveri e sempre più anziani. Sì. Nessuno fa più figli, nessuno fa più famiglia. Con la crisi tutti vogliono essere single. Ci si pensa un po' di più per fare famiglia. Lo so che è bello essere single, lo so che è bello non avere pensieri, però il fatto sta che qui non c'è gioventù più, eh. Siamo un popolo di anziani, stiamo sempre diventando sempre più appunto vecchi e più poveri in quest'isola. E i dati più recenti sulla crisi non lasciano spazio alla speranza, a quanto pare. Gli indicatori macro e economici disegnano una regione sempre più anziana e sempre più afflitta da problemi di crescita e occupazione. E le famiglie in povertà relativa sono in Sicilia oltre 547.000, pari ad una incidenza del 27,3%, penso un po'. La peggiore d'Italia, praticamente. Eh sì, questo dato risulta il peggiore tra tutte le regioni italiane, seguito a più di un punto percentuale dalla penultima regione, che è la Calabria, quindi siamo confinanti quasi con loro. Ed è anche normale. Sì. È distante 23.1 punti, scusate la ripetizione dei punti, percentuali dalla regione con minore incidenza, che è la Lombardia. Sta di fatto che è quella che sta più lontano da noi, praticamente. In pratica, stando a questi dati diffusi dal servizio statistica sulla regione, una famiglia su tre risulterebbe nell'isola in stato di indigenza. La popolazione, vediamo che a peggiorare questo stato di cose sono proprio i numeri della CGL, della CISL e UIL, sull'invecchiamento della popolazione.

Marco Mingoni con Pronto a correre all'interno di Déjà Vu, quando sono le 11.39, mancano circa 20 minuti a mezzogiorno e quindi alla fine di questo appuntamento di oggi, giovedì 23 maggio, e naturalmente un sacco di musica ancora prima che finisca il programma, che ci condurrà poi dritti dritti a un altro appuntamento, questa volta con Filippo Glorioso e con Carta e Penna. Un'altra cosa che in questo periodo ci piace tanto ricordare è questo singolo bellissimo dei Daft Punk che si chiama Get Lucky, e che naturalmente ascoltiamo e soprattutto balliamo insieme a Giuseppe, vero Giuseppe, sei pronto? Sì, sì, prontissimo. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Di quelle canzoni che ti entrano subito in testa e che ti piacciono a primo ascolto, questa di Daft Punk insieme a Pharrell, Get Lucky, il singolo che abbiamo sentito. Peppe, volevo dirti, quante ore stai davanti al PC? Devo tanto? Rispondere per forza, no, dai. È tanto? È tanto, dai. Usi il mouse oppure il touchpad? No, il touchpad. Sì, perché sì. Se usi tanto il mouse sappi che ci possono essere delle conseguenze, eh? Tanto. Si chiama tecnopatia ed è riconosciuto il danno per l'uso prolungato del mouse. Ecco. Tu lo sapevi questo? Con, sì, è così, non è tanto ottimo per chi è costretto anche a stare troppo tempo davanti alla PC e quindi lavorare direttamente a stretto contatto anche negli uffici, no? Sì, infatti, sappiate che con sentenza definitiva è stato riconosciuto un indennizzo con inabilità lavorativa pari al 15% a proprio un bancario per accertata tecnopatia causata appunto da uso eccessivo del mouse del computer. Nei giorni scorsi infatti avendo l'INAIL deciso di non interporre ricorso in Cassazione, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 14 febbraio scorso. I giudici, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara, hanno riconosciuto a questo lavoratore di 53 anni, dipendente della Caripe del 1983, impiegato come addetto alla movimentazione titoli, la sindrome pronatoria, si dice, sì, pronatoria. Si chiama così, sì, dell'arto superiore destro, causata proprio dall'uso eccessivo di mouse. La consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, in secondo grado non è stata rinnovata, infatti aveva ricondotto l'insorgenza della malattia all'esercizio della sua abituale attività lavorativa. Per cui praticamente anche lui, come anche tante altre persone che comunque potrebbero avere questo genere di problema, sappino che si può ricorrere ai ripari in questo senso, perché appunto viene riconosciuto come danno dovuto all'uso eccessivo di mouse, per cui si può anche denunciare il fatto che uno fa uso eccessivo del computer e del mouse, e quindi si creano poi questi problemi di salute in qualche maniera. Mi sa che in questo momento si sta verificando qualcosa all'interno di tutta Italia e del mondo, che tutti quelli che stanno utilizzando il mouse al lavoro si sono alzati e se ne stanno andando a casa, dicono non lo tocco è più. È possibile, anzi probabilmente proprio così, guarda, sicuramente. E vabbè, noi non possiamo che informarvi, poi beh, decidete certo. Voi sul da farsi. Nel frattempo pensiamo alla prossima canzone, un altro singolo di questo periodo, e arrivano i Depeche Mode che sentiamo con quest'altro singolo che si chiama Soothe My Soul. È così che si pronuncia? Sì. Sì, sentiamolo subito. Sun goes down. Déjà vu su CRM Happy Radio. Bentornati qui su CRM Happy Radio, siamo ormai in chiusura di Deja Vu anche oggi e abbiamo ascoltato Lick Lee con Fall Rivers, ora tra poco arriverà anche Filippo Glorioso con Carta e Penna. Infatti sì, arriverà anche lui, è già pronto, anzi sì. Devo dire, sta preparando le ultime cosette e naturalmente un'ora con voi qui su CRM anche Filippo Glorioso, come diceva Giuseppe, sino alle 13 sì. Con Carta e Penna. Nel frattempo andiamo avanti con l'ultimo singolo per oggi. Sì, abbiamo Alex Britti con Mi Piaci. Cosa vorresti